Letture di Radio 24. Il primo novembre del 2009 moriva a Milano Alda Merini, una delle voci poetiche contemporanee più note e stimate. Il comune di Milano ha da subito deciso di costruire una casa museo della poetessa, ma poiché la Merini abitava in una casa sui Navigli in affitto, la ricostruzione dei suoi ambienti avverrà in un altro luogo di Milano. C'è un problema però: anche i muri della casa sono importanti per la ricostruzione della casa museo, perché proprio sui muri Alda Merini ha scritto le sue ultime opere poetiche. Ci sono giorni che non si staccano dalle pareti, aveva scritto in uno dei suoi aforismi Alda Merini, ed era in quei giorni che i muri della sua casa sui Navigli si riempivano sempre più di parole e numeri, di segni di sogni notturni e pensieri improvvisi. Poi, dopo la sua morte, il primo novembre di un anno fa, dopo il trasloco di mobili, quadri e manoscritti, le pareti del bilocale in ripa di Porta Ticinese erano rimaste al buio e al freddo. Con la proprietà che premeva per ritornare in possesso della casa da imbiancare e riqualificare, ora quei muri, che sono l'ultima opera poetica di Alda Merini, verranno salvati dalla ristrutturazione del bilocale. L'assessore alla cultura Massimiliano Finazzer Flori e i tecnici del comune hanno chiesto all'amministrazione condominiale di entrare e verificare la possibilità di staccare parte dell'intonaco per ricostruirlo nell'ex fornace di Via Gola. È qui che dovrebbe sorgere la casa museo dedicata ad Alda Merini, che il comune assicura di inaugurare il prossimo 21 marzo, il giorno del suo compleanno. Insieme alle pareti verrà trasportata la porta di ingresso del piccolo bilocale, anche quella diventata negli anni una piccola opera d'arte, con adesivi, immagini, pensieri lasciati dai tanti visitatori della poetessa. L'asportazione delle scritte avverrà, come spiegano i tecnici del comune, attraverso lo scollamento degli intonaci. Il trasferimento delle scritte originali e della porta permetterà di riprodurre le atmosfere della casa della poetessa nella nuova struttura, dice l'assessore Finazzer Flori. Ricreare il vissuto di quegli ambienti sarà fondamentale per far diventare quegli spazi luogo di ispirazione per i giovani. Avete ascoltato Le pareti scritte di Casa Merini finiranno al museo. L'articolo, comparso su Repubblica del 26 novembre, è a firma di Sandro De Riccardis. Letture di Radio 24. La Chiesa Cattolica Copta, che rappresenta il 15% della popolazione egiziana, paga sempre più a caro prezzo la libertà di culto che l'Egitto garantisce a parole, ma poi non sa mantenere nei fatti. L'ultimo episodio a Giza, nei pressi del Cairo. Centinaia di manifestanti copti sono scesi in strada per protestare contro la sospensione dei lavori di costruzione di una chiesa. Negli scontri con la polizia, uno studente copto è morto e una sessantina di persone, inclusi 23 poliziotti, sono rimaste ferite. L'Egitto è un paese dove professare un culto diverso dall'Islam non è un reato. Tuttavia è molto difficile. I disordini del Cairo lo dimostrano. È di un morto e qualche decina di feriti il prezzo pagato dalla comunità copta ortodossa per essere scesa in piazza e manifestare contro il divieto di costruzione di una nuova chiesa nel quartiere di Talibia, a sud-est della capitale. Seguendo una traccia carsica, Islam e cristianesimo continuano a combattersi in Egitto, pur convivendo qui da tempi remoti. Già secoli addietro, i copti sono caduti vittime di persecuzioni anche più violente di quella attuale. La differenza oggi risiede nel fatto che l'autorità costituita non riesce a porsi come arbitro pacificatore tra le due fedi. Pur essendo garantita la sua libertà di culto, questa chiesa, espressione di un'identità cristiana prettamente egiziana, è costretta a rivolgersi al presidente Hosni Mubarak per ottenere il permesso di edificazione e ristrutturazione dei propri luoghi di culto. E la sua comunità presenta tutti i sintomi di una diaspora. Negli anni 70 erano circa 30 milioni i copti residenti nel paese. Oggi si sono ridotti a 12 milioni. Molti dei piccoli centri abitati a sud dell'Egitto sono villaggi fantasma. I monasteri e le chiese, capolavori dell'arte paleocristiana, vengono consumati dalla polvere del deserto. Lo Stato egiziano, per volute complicazioni burocratiche e comunque perché certo non è ricco, ne impedisce il recupero culturale. Al Cairo, però, la comunità cristiana si ingrossa. I flussi migratori dalle campagne convergono nella capitale. La presenza crescente di fedeli è proporzionata all'aumento della domanda per la costruzione di nuovi luoghi di preghiera. Ma anche questo è osteggiato dalle istituzioni. Eppure i copti rappresentano il 15% degli abitanti totali del paese, 80 milioni circa. Sono una comunità ricca, influente e con una preparazione professionale superiore alla media. A rigor di logica, Mubarak, se davvero volesse mantenere quel consenso trasversale e aconfessionale che era proprio del suo governo un tempo, dovrebbe prestare molta più attenzione alla causa copta. Tuttavia, dando la spalla ai cristiani, si scoprirebbe il fianco alla fratellanza musulmana. Appoggiando i primi, Mubarak rischierebbe di essere tacciato di cospirazione in favore degli infedeli. Il radicalismo avrebbe quindi buon spazio di manovra, più di quanto ne abbia già presso l'elettorato ostile al regime. Il Rais non può permetterselo. Di conseguenza è costretto ad adottare tatticismi impostati sulla banale legge della giungla. Se si vuole evitare che vinca il più forte, i fratelli musulmani, la leadership del Cairo, debole e al momento senza erede, non può che sacrificare i suoi vecchi sostenitori, suscitandone l'avversione. L'articolo che avete ascoltato è di Antonio Picasso e si intitola «A il Cairo, per una chiesa, scoppia una piccola intifada cristiana». È pubblicato su Il Riformista di giovedì 25 novembre. Dopo la crisi greca, oggi l'euro affronta con sempre maggiori perplessità tra alcuni degli stati membri anche la crisi d'Irlanda e lo fa con la consapevolezza che Portogallo e Spagna non sono così al sicuro da rischi più o meno futuri. Eppure c'è una parte d'Europa che ha ripreso a camminare, anzi a correre dopo la crisi, e la Germania che si ritrova a Natale con negozi pieni, i consumi in crescita e la sensazione di essere l'unica a tirare il carro d'Europa. Siamo sicuri che continuerà a correre per tutti? Proprio mentre l'Unione Europea è in una delle crisi più profonde della sua storia, ieri, nel grande magazzino del lusso berlinese, i clienti facevano la coda davanti ai banchi dello champagne, compravano liquori e bottiglie di vino pregiato, provavano persino abiti costosi, quasi che la capitale tedesca stesse cambiando pelle. Ancora di più, i consumi corrono nelle ricche Amburgo, Monaco, Francoforte, Stoccarda e anche a Dresda e Lipsia, ex Germania dell'Est. I ristoranti sono affollati come mai. Tra luglio e settembre i consumi sono aumentati dello 0,4%, il terzo trimestre consecutivo di crescita. Succede che dopo la recessione che nel 2009 ha causato una contrazione del prodotto interno lordo di quasi il 5%, la Germania ha ripreso ad andare bene, prima grazie a un boom delle esportazioni e poi, sulla base di una fiducia crescente nella stabilità del paese, grazie ai consumi. 10 anni fa la Germania era considerata il malato d'Europa. La sua economia era sclerotizzata, i costi di produzione alti, il mercato del lavoro bloccato. Oggi è l'economia più dinamica e c'è chi la definisce la grande ottimista d'Europa. L'indice IFO, che misura le sensazioni del mondo degli affari, è ai massimi dalla riunificazione del 1990. Il morale dei consumatori, misurato dalla società di ricerca GfK, sale ininterrottamente da 6 mesi. La disoccupazione è scesa sotto la soglia psicologica dei 3 milioni. Per fare un confronto, tra il gennaio 2008 e l'agosto 2010 è scesa dal 7,8 al 6,8%, mentre nel complesso dell'Eurozona è salita dal 7,3 al 10%. Molte imprese iniziano ad aumentare i salari, persino il governo di Angela Merkel, che per un anno è crollato regolarmente nei sondaggi, inizia a riguadagnare qualche consenso. Tanto che il cancelliere è ogni giorno più assertiva e sicura di se stessa, in politica interna come in quelle europea e internazionale. È che negli oltre 10 anni di vita dell'euro, i governi, soprattutto quello rosso-verde guidato fino al 2005 da Gerhard Schröder, hanno riformato e reso flessibile il mercato del lavoro e le imprese hanno ristrutturato con decisione e sono diventate altamente efficienti. In più, durante la crisi, il governo Merkel ha aiutato le aziende a non licenziare e semmai a ridurre gli orari di lavoro. Se abbiamo passato quasi indenni una crisi come quella recente, possiamo avere più fiducia nel futuro, diceva ieri Gisa Schmitz, 33 anni, mentre provava un cappellino al KDV. Intanto ad Atene, Dublino, Lisbona. Avete ascoltato l'articolo La Germania si scopre euforica, firma di Danilo Taino e pubblicato sul Corriere della Sera di venerdì 26 novembre.